Io non so scrivere storie, però adesso finalmente so capire le barzellette. E vi assicuro che fa tutta la differenza del mondo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, è un venerdì qualunque, 13 maggio 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Io ho avuto un amico improbabile. Non lo vedo da un po', Però è sempre stato un amico molto caro e veramente improbabile. Avevamo fatto insieme le scuole medie, anche le superiori. Poi l'avevo un po' perso di vista. Lui mi ricordo che si era trasferito, era andato a vivere in Toscana prima. Poi lì si era innamorato di una ragazza olandese ed era andato a vivere a Utrecht. Lì ci aveva vissuto per una decina d'anni. Era diventato uno squatter. Viveva in un ex magazzino senza riscaldamento. Ripeto, in Olanda, a Utrecht. Però aveva una connessione internet velocissima, perché nel frattempo era diventato un hacker. L'ultima volta che è venuto a Milano è stato a casa mia un paio di giorni. Gli abiti che aveva indosso sembrava che non avessero visto un detersivo dagli anni 80, probabilmente. I suoi capelli in testa erano pochi e sparigliati. Aveva terribili borse sotto gli occhi, però era sempre lui, divertente, cinico e con il giusto distacco dalle cose. Quando l'ho presentato ai miei amici, per i primi 5 minuti loro mi hanno guardato come a domandarmi: ma questo chi è? Lui poi ovviamente li ha conquistati in un attimo e non è servita nessuna presentazione. Però se penso ad un amico improbabile mi viene subito in mente lui. Avete presente? Tutti hanno un amico che è un po' difficile da inquadrare. Uno che è stato incontrato nell'arco della vita che sembra non avere niente a che fare con noi o con le persone che ci stanno intorno. Uno che fa un mestiere strano, che fa una vita strana, che non capisci bene in che direzione vada e da dove venga. Che poi a pensarci, visto che siamo tutti democratici, è facile, no? Però poi di primo acchito, quando lo presenti agli amici o magari ai parenti, fanno un po' fatica a inquadrare questa persona che è così fuori dal contesto. Ecco, oggi vorrei parlare proprio di loro, di queste persone che fanno parte della nostra vita in maniera diversa dalle altre. Persone che quando le incontriamo ci fanno capire che in fondo anche noi siamo un po' diversi da come immaginavamo di essere, perché avere amici così. Oggi è giorno degli amici improbabili. Quelli che sembrano borderline. E invece forse no, forse hanno solo capito come girano le cose. Chiunque sia il vostro amico improbabile, e magari anche un po' impresentabile, ecco, io oggi sono qui. E c'è un numero da chiamare che è sempre quello, è 800240024 per chiamare in diretta gratis, altrimenti un sms alla modica cifra di, non lo so, quello che vi passa la vostra compagnia telefonica, 349-238-6666. Come sentite c'è silenzio intorno a me, Rudy mi toglie un attimo la base. C'è silenzio intorno a me, questo vuol dire che non siamo più al Salone del Libro. Io ringrazio però tutti quelli che al Salone del Libro ci sono venuti, erano tanti, non potremmo dire altrimenti, è vero, lo so, però ci sono anche le foto, sono venute un sacco di persone ed è sempre un piacere vedere che le persone si spostano e vengono lì per ascoltare un programma e vedere anche chi c'era della redazione. Una cosa che però vorrei specificare è che molte hanno portato il racconto che vi racconta, l'hanno portato a mano. E questo a questo punto sarà solo un problema per Viola, temo, perché sono da riscrivere, ovviamente. No, se l'avete scritto, anche se avete un file, speditelo, io sono qui, @radio24.it. Ma quello di ieri non era il termine ultimo. La raccolta continua, come spiegavo ieri, non mi ricordo se lo spiegavo fuori onda o in onda, perché poi, come dire, la puntata si è allungata anche dopo la diretta. Come dicevo ieri, questa è semplicemente parte di un'operazione che proseguirà, una forma di raccolta del materiale che diventerà una cosa più grande, probabilmente la prossima stagione. Quindi continuate a scrivere, spedite a io sono qui @radio24.it un racconto di una pagina che racconti un episodio della vostra vita che meglio dice qualcosa di voi. 800240024 invece per parlare oggi di quelli. Avete capito cosa intendo, no? Quando parlo di amici improbabili. Non si fa del classismo, ovviamente, e non vogliamo nemmeno fare quelli con la puzza sotto il naso. È semplicemente che ci sono delle persone che ogni tanto lo incontri per strada e dici: quello potrebbe essere mio amico. No, e invece magari lo è. Ed è un pochettino improbabile. Ovviamente valgono amici molto intimi, anche valgono anche fidanzati improbabili, cioè persone che avete incontrato per la strada e a un certo punto vi ci siete fidanzati e tutti quanti vi dicevano: ma sei sicura? Ma scusami, c'hai dread, passa tutte le sere al centro sociale, tu studi alla Bocconi. Ecco, quella roba lì. 800240024 349-238-6666. Luca su Facebook mi ha scritto: fatto schioccare un po', ho conosciuto di persona Guglielmo Sinigaglia. Era un ex agente del Sismi, diventato un barbone a causa della strage di Ustica. Per paura, mi diceva, si è rifugiato sulla strada. Lo incontravo quasi ogni giorno in corso Venezia, all'altezza di Palestro, si parla di Milano, perché era dove scendevo per andare al liceo, e scambiavamo sempre due chiacchiere. All'inizio ero incuriosito dai cartelloni raffiguranti notizie del Corriere e di altri giornali sulla strage, però data la mia ignoranza e dato il mio scetticismo non mi sono soffermato tanto sulla tragedia ma sulla sua sulla persona, che per paura di morire, per paura che facessero male a sua moglie e a suo figlio, ha mollato tutto, ma proprio tutto, essendo anche lui indagato, poi per aver fatto trapelare quelle che erano informazioni top secret. Ecco, non so se Luca è diventato suo amico, però ecco, una persona come questa vale. Marianna, ho conosciuto un amico in un concerto di Laura Pausini. Già questo basterebbe, nel senso che però io direi Marianna, però se tu sei andata al concerto di Laura Pausini, anche tu sei un po' borderline probabilmente. E qui a lei, fan di Laura Pausini. Tra l'altro ho saputo che Laura Pausini ascolta Radio 24. Questa l'ho buttata lì. Eravamo diventati amici, molto amici. Poi per una banalità è tutto finito. Ecco che dico che l'amico improbabile ha una durata minima rispetto all'amicizia. Ah, ho capito, Marianna è scritto un po' male perché l'ho trascritto male io. Però il messaggio di Marianna era che secondo lei gli amici improbabili durano un po' di meno delle amicizie vere. Io penso esattamente il contrario. Penso anzi che durino molto di più. Forse ha a che fare con Luca che se n'è andato e non ritorna più. Ma era Luca? No, non so se era Luca che se n'era andato. Simone, il mio amico improbabile è un signore marocchino sui 50 anni che vende fazzolettini di carta, accendini e simili ad un semaforo a Bergamo. A differenza di molti altri, non chiede mai l'elemosina, ma cerca di vendere la propria merce. Tra l'altro mi dicono dalla regia che è Marco che se n'era andato via e non tornava più, e non era Luca, grazie a tutti questi geni della musica leggera che stanno di là dal vetro. 800240024 349-238-6666. Oggi si parla di amicizie improbabili. Oggi finalmente, dopo che l'avevo sentito ieri al telefono durante la diretta da Torino, è tornato il dottor Salvati. Era stato via un pochettino. Era abbronzato. Era in compagnia di una ragazza che avrà avuto massimo 30 anni. Ha attraversato il cortile, salito le scale ed è entrato nel suo studio. Io nel weekend avevo letto le 1001 storie chiuse dentro quel faldone che aveva lasciato a casa mia. Cioè le storie vere che i suoi pazienti scrivevano per raccontare qualche cosa di loro. E io che mi sentivo in colpa come se avessi violato le password del Pentagono, gli ho subito suonato alla porta e gli ho riportato il tomo. L'ho pregato di scusarmi per non averlo rintracciato prima e lui mi ha risposto che no, che era lui che doveva scusarsi per esserselo dimenticato. E mi ringraziava moltissimo. Mi ha anche chiesto se avevo letto qualcosa. Ecco, io lì ho reagito come se mi avesse chiesto se avevo bevuto dell'acqua santiera. Ed è stato allora che invece lui ha sostenuto che era un peccato che non l'avessi letta, che dentro c'erano delle storie fantastiche. La cosa mi ha sollevato molto, quindi insomma non avevo fatto nulla di male a leggerle, anche perché poi i nomi erano tutti di fantasia. E mentre lo guardavo, pensavo che per vari motivi, alcuni dei quali mi erano diventati chiari solo oggi, lo psicologo mi pareva un gran bel mestiere. Storie, abbronzatura, giovani donne sorridenti e soldi, penso. Però, c'è un però. Il però è che a fare quel lavoro ti devi caricare un peso sulle spalle, ed è il peso del dolore e della sofferenza di tutti i pazienti. Non lo puoi evitare. Anzi, sei pagato proprio per prendertelo quel peso. E in più hai una responsabilità, che è quella di farli stare meglio. Il problema però è quali armi hai per farlo. Poche. Cioè, non voglio dire che lo psicologo sia meno efficace di altri medici, sia ben chiaro. Però è vero, è una terapia che si basa su meccanismi che dipendono in grande misura dal paziente. Cioè, non è un percorso facile come quello di un normale specialista, che ne so, di un gastroenterologo, ad esempio, o di un chirurgo ortopedico. I normali dottori fanno esami con dei risultati certi. Leggono radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche. E poi dati inequivocabili sui livelli di elementi chimici nel sangue. E allora ti somministrano medicine per alzare o abbassare la pressione, la glicemia, oppure fanno altro, aprono il corpo e tolgono pezzi malati, li buttano, li sostituiscono con pezzi di titanio o li aggiustano e poi richiudono. Attaccano tubicini, staccano tubicini. E non ci sono tanti modi per farlo. Ce n'è uno, quello giusto. E tutti riconoscono che quello è quello giusto, si tratta solo di farlo bene o farlo male. Il mestiere del medico è un mestiere duro e faticoso, ma non è più difficile di quello dell'ingegnere, secondo me. Chi invece ha a che fare con l'anima, con la sofferenza, che gli strumenti non possono misurare, è molto più debole. Ha meno armi per combattere il malessere. Eppure tutti gli chiedono dei risultati tanto quanto si chiedono all'ortopedico che fa lo scultore di ossa o all'endocrinologo che gioca al piccolo chimico. Lo psicologo si espone al pericolo del fallimento tutti i giorni e la sua cosiddetta scienza è messa sempre in discussione dagli scettici, quegli stessi scettici che quando vedono un trapianto di cuore gioiscono e dicono: vedi, questa sì che è medicina, guarda, il cuore nuovo funziona. Ma l'anima non è un insieme di tubi e reazioni chimiche. L'anima, chiamatela come volete, nessuno l'ha mai vista, figuriamoci aggiustata. Io provo grande rispetto per chi lavora per aiutare le anime malate, soprattutto quando mi capita di vedere gente che aveva perso la speranza e invece ricomincia a sorridere. The sun came up with no conclusions, flowers sleeping in their beds, the city cemetery's humming, I'm wide awake, it's morning. So when you're asked to fight a war that's over nothing, it's best to join the side that's gonna win. And no one's sure how all of this got started, but we're gonna make them goddamn certain how it's gonna end. Oh yeah, we will. Oh yeah, we will. Prima però che il dottor Salvati mi togliesse di mano quel libro, il libro delle mille e una storia, ho fatto in tempo a leggerne ancora, e non soltanto una. E una delle storie che mi ha colpito di più è stata quella di Anna, che è ovviamente un nome di fantasia. È stata la storia di Anna e della sua seconda o forse terza giovinezza. Anna è una donna di 70 anni che racconta di un incontro. È vedova da molto tempo, non ha più incontrato un altro uomo dopo suo marito. E le sue sono giornate riempite dai nipoti e dalle piante, perché una volta le hanno detto: se vuoi essere felice un'ora, ubriacati, se vuoi essere felice una settimana, trovati un uomo, ma se vuoi essere felice tutta la vita, fai del giardinaggio. E lei nel tempo l'ha fatta un po' tutta, si è ubriacata, aveva trovato un uomo, ma quello che le era rimasto era la cosa più preziosa, era la passione per i fiori e i cespugli. Anna nel suo racconto descrive un fatto che le è successo qualche sera prima, quando le sue amiche hanno insistito per portarla in un posto dove si balla il liscio, che era una loro passione giovanile. Ed è lì che incontra una serie di persone improbabili. E poi nota l'uomo che canta sul palco. È sudato, è sgraziato, ha l'apparenza anche decisamente poco raffinato, con i capelli tinti e la banana in testa. Eppure il cantante di quel gruppo di ballo liscio, anche lui non più un ragazzino ovviamente, tiene in pugno la serata, ha un grande successo, canta, fa battute, si diverte, gioca con il pubblico e la fa anche un po' emozionare. E io che sono una donna elegante, della Milano bella, scrive Anna, una che va dallo psicologo perché è triste e non desidera più niente. A un certo punto mi ritrovo alle 3 del mattino fuori da una porta di servizio, in un vicolo buio, ad aspettare che esca un cantante da balera, un po' volgarotto, ma pieno di energia, sperando che non mi mandi a quel paese. E quello che succede è che questo esce e mi sorride, e dice cose che fino a ieri avrei trovato sconvenienti, e invece in quel momento mi mettono di buon umore. E allora io saluto le mie amiche, e spendo quel che resta della notte a passeggiare per Milano insieme a lui, sempre un po' imbarazzata, e chiedendomi cosa diavolo ci faccio di fianco a uno più basso di me, eppure un po' puzzolente. Eppure mi sento ancora una volta viva dopo tanto tempo, e non capisco il perché. Il suo racconto procede veloce, anche leggero, dice di come in pochi giorni abbiano deciso di andare a vivere insieme, pur essendo così diversi. Io sono sempre stata una persona molto seria, finisce Anna, una che non sarebbe mai scesa a prendere il giornale senza indossare la sua collana di perle, una che dà molta sicurezza agli altri, ma poca a se stessa. Io mi chiedo che cosa mi piaccia di quest'uomo. E niente, non lo capisco. Ma solo l'effetto che fa a me mi piace, mi fa ridere. E io era da tutta la vita che non ridevo. Io non so scrivere storie, ma adesso finalmente so capire le barzellette. E vi assicuro, fa tutta la differenza del mondo. Oh, È sardo, nerd, eternamente ritardatario, non risponde agli SMS. Quando fa le foto con tutti in posa, invece di scattare si mette a commentare i pixel della macchina fotografica. Siamo cresciuti insieme, è indubbiamente tra i miei più grandi amici, scrive Simone. Invece Federico scrive: Luigi è il mio amico improbabile, detto Gesù Cristo per magrezza e lunghezza della barba e capelli. Coltivatore di marijuana, non riusciva a venderla perché la consumava tutta lui. Federico, io ho avuto una gioventù difficile, mi scrive, ma non si firma. Adesso lavoro in pubblicità, sempre molto stiloso. Gioca a calcio e incontro amici di vecchie compagnie, molto alternativi. Dreads, qualche dente in meno, tatuaggio ovunque, ma amici. 80024 0024 349 238 6666. Proviamo a sentire. Ascolta, no, poi era arrivato un messaggio che diceva così: caro Matteo, non è un venerdì qualunque oggi. È apparsa la Vergine Maria a Fatima nel 1917. Ferdinando da Varese. Ferdinando, ti chiedo scusa, questo dettaglio mi era apparso. Non mi ricordavo che fosse. Mi era sfuggito. Non mi ricordavo che fosse il 13 di maggio, ma è un po' come se fosse oggi. Qualcuno invece sul profilo Facebook mi ha scritto: i miei amici strani e improbabili siete voi della radio. E ti ringrazio. L'ultimo messaggio prima di dare la linea alla borsa: Matteo da Treviso, ho conosciuto un culturista brasiliano in palestra che, senza che nessuno gli chiedesse nulla, in 15 minuti mi ha raccontato la storia della sua vita, progetti futuri e passati. Mentre lo guardavo tra me pensavo: ma perché non ho portato l'iPod? Però direi che questo non è diventato un tuo amico. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella fotografia di oggi siamo invece in una salina, è inequivocabile perché il terreno è completamente bianco, il cielo è azzurro, è striato da qualche nuvola, ma in mezzo alla salina ci sono i tipici montarozzi di sale, quelli che si vedono nelle saline abitualmente. Mi verrebbe da dire che è una delle saline di Trapani, ma semplicemente perché sono un ignorante e non ne ho viste altre. E poi le saline di Trapani sono un pochettino più rosa di colore e hanno i tipici mulini ricostruiti per i turisti, che indicano che lì si macina il sale. Qui invece proprio non ho idea di dove siamo. Daniela Ramirez, 21 anni. Un deserto di sale nel cuore dell'America Latina, che con le sue bianche dune mi riempie l'anima di smarrimento. Io sono qui. Daniela, hai riempito anche un po' la nostra anima di smarrimento con questa foto e andate a vederla sul sito di Radio 24, visto che tutti i giorni Valeria Ausiello ce la carica, radio24.it, la pagina di Io sono qui. Michele mi scrive: il mio amico improbabile si chiama o si fa chiamare Bye Bye, è un artista di strada di Dakar, circa 30 anni, dipinge i colori della sua terra su tavolette ricavate dalle cassette per la frutta. Non posso dire che sia un proprio mio amico, ma gli ho acquistato a 5 euro 4 dei suoi bellissimi lavori. 349-238-6666 invece. Il mio amico improbabile fa il parrucchiere, ha i capelli azzurri ed è molto fuori dal comune, il tipico dandy. Ora stiamo insieme da 7 anni, ma non ti dico quando l'ho presentato a parenti e colleghi, perché io invece lavoro in banca. Paola, andiamo invece a Torino da Maurilio. Pronto Torino? Torino, buonanotte. Sì, Torino, va bene. Perdonami. Sono perché sono in autostrada. Ciao Maurilio, come stai? Ciao, bene. Ma Maurilio, non Maurizio. Maurilio è la mia croce, così adesso tutti quelli che mi ascoltano a Torino, che mi conoscono, sanno che ti riconoscono e tutti quanti ti chiederanno: ma che nome è? Cioè, ma da dove arriva Maurilio? No, ma cos'è? Ma non di cognome, dai, cioè, anche così va bene. No, ma l'ho capito. Ma Maurilio no, di... lo so. Ma da dove arriva? Ma da dove arriva? Era il cardinale che ha cresimato mia mamma. Ostia, che sfiga. Ma scusami, ma Maurilio di nome proprio? Sì. Lui si chiamava di nome Maurilio? O si chiamava Maurilio di cognome il cardinale? No, era il nome. Ma ha un significato particolare? No. No, il nome penso che sia di origine latina. Va bene, ma andiamo avanti giustamente, altrimenti siamo per un quarto d'ora sul tuo nome. Tu hai un amico rumeno che vive in una baracca. Sì, vive in una baracca, lo aiuto, ogni tanto viene a farsi la doccia da me. Uh-huh. E ogni tanto, visto che ha la mia taglia, dopo la doccia ci mettiamo in giacca e cravatta e andiamo nei locali storici di Torino, dove non lo fanno entrare di norma. Andiamo lì apposta per prendere in giro i camerieri che normalmente non lo servirebbero. Come l'hai conosciuto? Ci siamo conosciuti così, parlando, poi ho fatto un po' di amicizia, poi non sapevo che viveva in baracca, poi niente, mi ha fatto un po' pena. Però, ma quindi scusa, il fatto che siete amici vuol dire che proprio parlate di cose che non sono solo la sua vita di stenti oppure... No, anzi lui non... Non ne parla proprio. Non mi ha neanche chiesto 20 euro per intenderci. Quanti anni ha lui? 34. E, ad esempio, non gli hai mai chiesto perché il motivo non cerca un lavoro o una sistemazione diversa? Lui lo cerca, ma il momento è quello che ha un passato un po' burrascoso al suo paese e via. Ho capito, ho capito. Quando è che l'hai visto l'ultima volta? Non l'ho visto l'ultima volta, l'ho sentito che ogni tanto mi telefona che si perde, che vuole sapere come tornare a casa e gli devo spiegare le strade. Sì. Il tuo, sei il suo navigatore personale. Sono il suo navigatore personale. Maurilio, grazie mille, mi spiace grazie. Per il tuo nome, ma stai su, tranquillo, stai su, ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Modena da Roberto. Ciao Roberto. Pronto, ciao, ciao, stai bene? Roberto. Tutto bene Roberto, sì. Sì, grazie a Dio, sì. Tu dormivi in strada, in piazza ad Amsterdam? No, aspetta, c'ero arrivato in autostop nelle mie ferie, dal mio lavoro, sì. Assieme al mio amico Paolo, con il quale siamo cresciuti assieme, poi in agosto del 66, tempo degli hippies, mentre andavamo in autostop perché eravamo in bolletta dura a trovare mio eravate, scusami lavorava. Roberto, eravate in bolletta durissimo dura. Sì. In modenese si dice che era una miseria che zigheva l'aria. Me la ripeti per piacere, perché in dialetto è proprio. Cioè, era una miseria che zigheva l'aria. C'era una povertà che... C'era una tale miseria che l'aria quando entrava dalle finestre si vergognava e scappava fuori da quell'altra. No? Wow. Quanti anni avevi Roberto? Avevo 16 anni e lui ne aveva 15. Uh-huh. Siamo partiti assieme in autostop per andare a trovare mio fratello che lavorava in Germania. Poi una macchina che ci caricò a Basilea stava andando ad Amsterdam, a che ti puoi immaginare, mi ha detto beh veniamo anche noi. Siamo qui. Mio fratello ci andiamo al ritorno, insomma, ecco. Siamo arrivati là, abbiamo dormito in piazza d'Amsterdam, dormivano tutti gli hippies, è stata una cosa meravigliosa, le chitarre, i capelli lunghi, noi eravamo tutti belli, puliti, ordinati, no? E sostanze di ogni tipo ovviamente, Roberto. È stato veramente entusiasmante per quegli anni. E poi lì però abbiamo visto il rovescio della medaglia, i drogati che in Italia non si vedevano e soprattutto lì dilagava l'LSD. Uh-huh. Io vedendo delle scene terrificanti capì che non mi sarei mai drogato in vita mia. Uh-huh. Lui informandosi seppe che costavano le pastiglie di LSD 5.000 lire contro le 20.000 lire che costavano in Italia, no? Decide di farne un business. In poco tempo è diventato milionario, dopo poco tempo ha cominciato a sentirle anche lui le pastiglie, fino a rovinare sé e tutta la famiglia. E il tuo amico quindi ha cominciato a quell'età a fare tutto ciò? A quell'età. E adesso come è messo? Dopo 6 anni di varie cliniche per le quali ha rovinato tutta quanta la famiglia, si sono dovuti mangiare la casa e tutto quanto, eccetera, poi sono riusciti a salvarlo, lui è un fisico eccezionale, si è trasferito a Torino, chissà se mi ascolta Paolo, si è trasferito a Torino, fa il magazziniere e anche a tempo libero istruttore di roccia, no? Si è salvato e oggi è una famiglia, ma il rischio è stato terribile, ha passato anni terrificanti e suo fratellino, dietro il cattivo esempio, è morto in una comune a Bologna. Insomma. Senti, ma non vi sentite più Roberto con Paolo? No, lui ha preferito, quando è uscito dall'ultima clinica, Monticelli Terme a Parma, sì. Quando è uscito dall'ultima clinica ha deciso di tagliare i ponti, va bene, tutti quanti va bene. I ponti, eccetera. Vabbè. Io ho rispettato questa scelta, ho notizie da suo fratello, bene. Eccetera, e Roberto, gli voglio sempre molto bene. E in qualche modo lo salutiamo, ti ringrazio Roberto, okay, ciao, prego, buona giornata. Ciao. E poi è arrivato questo messaggio, sono io l'amico improbabile, pronto Bruno? Sì, salve. Ciao, come stai? Discretamente. Grazie per essere qui, Bruno, innanzitutto. Cosa vuol dire che sei l'amico improbabile? Che quando esci un attimo dai canoni classici, la gente ha difficoltà a capire quello che fai. Dimmi che cosa fai però, Bruno, per uscire dai canoni e per rendere difficile la comprensione. No, io non faccio assolutamente nulla a proposito. Faccio che non ho voglia di essere schiavo di un lavoro e mi comporto di conseguenza, quindi... Quindi cosa fai? Come vivi? Come ti guadagni da vivere? Ma intanto ogni tanto restauro barche e questo mi consente un po' di stare nel mio mondo che è il mare, perché le ho anche costruite precedentemente, E come passi la giornata, Bruno, scusami? Come passo la giornata? Sì. Ma ci sono tanti modi per passare la giornata. Dimmene uno. Ma si può andare al mare, si può cercare in barco, si può uscire in barca. Tu ti imbarchi? Può... Ah, nel senso che ti imbarchi e ti capita di lavorare in quel modo? No, io mi imbarco anche alla pari, perché mi piace molto navigare. Sì. Sì, l'ho fatto anche per lavoro, ma precedentemente ormai non ho più l'età. E quanti anni hai, Bruno? 50. E non hai una famiglia, immagino, perché sei un po'... Ho una compagna, ma anche lei è molto... border, è un po' border, sì. Anche lei. Sì, esatto. Quindi non state insieme? Sì, sì, viviamo insieme. Vivete? Ho una casa a Roma, che è un po' il mio punto d'appoggio, però... Scusami, e come la mantieni la casa a Roma? Perdonami, so che sembra un film di Nanni Moretti, vado in giro, vedo gente, faccio cose, però ho quella sensazione lì, come paghi le spese della casa? Cioè, hai dei soldi da parte? Ma un po' ho dei soldi che mi arrivano frequentemente con dei diritti, perché facevo il fotografo prima, però insomma, è poca roba questa. E poi, ti ripeto, faccio piccoli lavori che mi consentono di sopravvivere. Va bene, Bruno, stai su... E ti ringrazio molto. D'accordo. Buona giornata. Ciao, ciao, grazie. Io sono qui, @radio24.it. Il racconto che vi racconta è il momento di leggere un pezzo, è esattamente l'incipit di un racconto che si chiama L'Acu. All'imbrunire, quando sulla città di Roma il cielo si incendia a semicerchio, L'Acu arriva nella piazza del colonnato del Bernini. Percorre a passo lesto il tratto selciato un po' sconnesso che lo separa dal suo ufficio e, sempre vestito elegantemente, inizia il suo turno di lavoro. Si toglie con cura il soprabito, si accomoda sullo sgabello girevole, avvia il computer, prende possesso di spinotti, leve e pulsanti vari. Poi, con le cuffie ricetrasmettenti ben assestate sulla testa, inizia a districarsi magistralmente nel groviglio di fili colorati della telefonia, si schiarisce la voce e prende contatto con il mondo. È inevitabile che a volte, per scherzare, gli amici gli chiedano se qualche volta, oltre alle telefonate quotidiane di segretari, nunzi apostolici, cardinali, politici, capi di Stato, regnanti e così via, ne arrivino di particolari, telefonate dall'alto. Lui risponde sempre che da quell'altezza lì non è possibile telefonare, né ricevere telefonate, e che se qualcuno di loro ha bisogno di comunicare qualcosa, non deve fare altro che apparire alla gente. A volte potrebbe anche infiltrarsi nei sogni o dare segni quasi tangibili della propria esistenza. Già, se qualcuno ha fatto il mondo, saprà bene come gestirlo. Grazie a Marisa Monteferri, che ha scritto questo racconto e l'ha inviato a iosonoqui@radio24.it. Siete ancora in tempo. Il Salone del Libro non era una scadenza, era solo una tappa della raccolta di questi racconti. Grazie a Fabio Rudi Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni e a Margherita Frarelli. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?